Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. L'Organizzazione Marittima Internazionale ha stabilito l'obbligo di pesatura prima dell'imbarco dei contenitori quale misura per garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare. Dal prossimo mese di luglio questo provvedimento sarà operativo anche in Italia, ma prima di entrare nella sua piena applicazione vivrà una fase transitoria di adeguamento fino al 30 giugno 2017. Questo è quanto stabilito da una direttiva pubblicata in questi giorni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che indica, fra le altre cose, il margine massimo di errore nella determinazione del peso. Ma quali saranno le maggiori difficoltà per gli operatori e per i porti chiamati a confrontarsi con questa nuova pratica? Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Come avete ascoltato dalla scheda iniziale, c'è un problema che turba il sonno degli addetti ai lavori, soprattutto quelli del settore dei container. Il tema è una direttiva Solas, che prevede la pesatura obbligatoria di questi container, questo perché nel tempo si è visto che questo peso non era proprio sempre rispondente a quello dichiarato, questo comportava poi tutta una serie di problemi di sicurezza. C'è questa direttiva, c'è questo tema della pesatura che sarà obbligatoria a partire dal prossimo 1 luglio, ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento innanzitutto il collega giornalista Nicola Capuzzo, che per la rivista TIR, la rivista dell'albo degli autotrasportatori, sta seguendo questo tema. Nicola, cosa prevede la normativa europea Solas e come è stata recepita dalla normativa italiana? In pratica dall'1 luglio sarà obbligatorio pesare nei porti italiani tutti i container destinati all'esportazione e che verranno trasportati via mare su navi portacontainer. Come tu giustamente dicevi, è una normativa internazionale voluta dall'International Maritime Organization, perché in passato si sono verificati incidenti marittimi causati da una difformità fra il peso dichiarato dei container nelle polizze di carico e invece il peso effettivo, che può creare in taluni casi delle conseguenze per la sicurezza della navigazione. Ecco, ma questo che tipo di problemi comporta per i porti? Lo chiediamo a Mario Mega, segretario generale dell'autorità portuale di Bari. I problemi potrebbero essere quelli di un grande afflusso di mezzi nei porti senza che i container siano dotati della certificazione del peso. Noi su questo, anche se abbiamo volumi di traffico non particolarmente alti, ci stiamo domandando come fare insieme agli operatori e alle istituzioni, considerato che nel caso di Bari le banchine sono tutte pubbliche e quindi in maniera da consentire a tutti gli operatori di poter operare alle stesse condizioni, abbiamo condiviso che nelle prossime settimane metteremo a disposizione una ulteriore pesa pubblica certificata che consentirà ai mezzi che ancora a container che ancora fossero sprovvisti di certificato all'arrivo in porto di avere un luogo dedicato dove ottenere la pesatura e quindi poter poi andare direttamente nell'area, certo, di stoccaggio e poi di imbarco. Quello di Bari è un caso fortunato perché esistono delle aree disponibili, a differenza però di tanti altri porti dove questi spazi non ci sono. Ma quali sono invece le conseguenze per gli operatori del trasporto? Lo chiediamo ad Oscar Zabai, presidente di Auta Marocchi e consigliere nazionale di Anita. Io sono personalmente molto preoccupato, così come lo sono i miei colleghi, chiamiamoli competitors per esattezza, perché la procedura entrerà in vigore il 1 luglio, cioè nel periodo peggiore dell'anno. Saremo in peak season, cioè nel momento peggiore, nel periodo peggiore nel senso che è lì che si concentra la domanda di trasporto, e questa incombenza della pesatura avrà inevitabili ripercussioni sulla produttività delle aziende di autotrasporto, e ciò perché con le strutture portuali già sotto forte pressione, i colli di bottiglia ai gate, saranno molto più che un'ipotesi. Però, se posso permettere, a mio avviso parlare dei problemi ha senso se almeno tentassimo di misurarli. Lei cosa dice? Cioè, a Genova i miei si sono presi la briga di fare delle simulazioni spanometriche, se vuole, ma danno un'idea sull'entità del problema che potrebbe abbattersi sull'autotrasporto. Allora, considerato che a Genova, sto parlando di Genova ovviamente, il capo mondo del trasporto container, considerato che su Genova gravitano circa 3.500 camion al giorno, che l'export interessa circa il 60% dei camion, avremo circa 2.000 camion da pesare. Dove? Allora, una parte senz'altro fuori Genova, presso gli stabilimenti e presso gli interporti e le strutture che ci attrezzeranno. Un'altra metà, o un terzo, verrà pesata a Genova. Stiamo parlando di 1.300 camion, 1.300 contenitori. OTU. Beh, allora abbiamo stimato che una bilancia a raso, con le relative verifiche e documenti, sarebbe in grado di gestire 10-15 camion all'ora. E allora la domanda giusta è: quante bilance servirebbero per pesare in tempi accettabili quella mole di veicoli, ma non certo quante ore dovrebbero attendere per essere pesati? Sì, soprattutto dove collocarle queste bilance, visto che a Genova c'è una notoria carenza di spazi. Sia in termini per carenze di spazio, sia perché rallenterebbe l'operatività dei terminal marittimi. Ecco, Zabai, lei mi ha parlato di pesatura a raso. Si era aperta una polemica molto feroce prima dell'emanazione di questo provvedimento, perché sembrava che invece ci fossero diversi sistemi di pesatura, ma soprattutto diverse tolleranze. Nicola Capuzzo, qual è la tolleranza prevista? L'ultima versione, diciamo, del regolamento appena reso pubblico stabilisce che per il primo anno, quindi fino al 30 giugno del 2017, c'è un, è stato chiamato periodo transitorio, durante il quale ci sarà una tolleranza fino a 500 kg per difformità di peso rispetto a quanto riportato nelle dichiarazioni, quindi nelle polizze di carico, rispetto al peso effettivo. E ci sarà inoltre una tolleranza anche sulla possibilità di utilizzare da parte degli operatori i cosiddetti strumenti non regolamentari. Quindi quelli regolamentari sono di fatto quelli fissi, quindi, come diceva il dottor Zabai, le pese a raso, che sono quelli autorizzati. Tutti quanti gli altri strumenti cosiddetti dinamici, quindi banalmente per capirci i macchine da piazzale come reach staker, gru eccetera, non saranno invece autorizzati dopo il 30 giugno 2017, e questo quindi è anche un risvolto nel senso che terminal operator, spedizionieri, interporti eccetera dovranno chiaramente correre tutti ad attrezzarsi, certo, con strumenti di movimentazione moderni e che abbiano precisioni maggiori nella determinazione, certo, del peso. Mario Mega, voi siete il porto di Bari, uno dei porti fortunati perché avete delle aree in cui sarà possibile attrezzare appunto queste pese. Come vi state muovendo in questo senso? C'è già una progettazione in stato avanzato? Sicuramente la fortuna è legata comunque ai numeri sicuramente più bassi di container da pesare, quindi noi non parliamo di numeri che ha citato il dottor Zabai, siamo ben al di sotto, quindi riusciremo a consentire teoricamente anche a tutti i container che arrivano in porto, che nell'arco di una giornata non superano mai le 100-120 unità, di riuscire a eventualmente a pesare. Certo che i problemi sono reali, noi abbiamo già una progettualità pronta, nei prossimi giorni sarà chiusa l'intesa sul posizionamento insieme alle altre istituzioni del porto e contiamo di riuscire ad essere pronti già operativi dal 1 luglio, però effettivamente il problema, quando i numeri aumentano, sarà reale. Zabai, cosa dovremmo aspettarci in futuro, alla fine di questo periodo transitorio? Io mi aspetto che per alleviare il peso sull'autotrasporto ci si basi molto più sulla tecnologia e sull'informatica piuttosto che sulle attività tipiche di pesatura, perché andremmo a creare dei costi, di incrementi di costo notevolissimi per l'autotrasporto. E dei disagi un po' anche per tutta la viabilità, perché poi ovviamente se c'è congestione... Sto parlando proprio dei costi in capo all'autotrasporto.